60. Jazz e dintorni. Viaggi dentro la musica, percorsi proposti da Stefano. Buonasera a tutti, buonasera da Stefano. Stasera non sono solo, sono insieme a Paolo che ci terrà compagnia in questa nuova puntata di Jazz e dintorni. La puntata di stasera è dedicata ai pianisti italiani in particolare, quindi l'abbiamo intitolata Pianisti Doc. In effetti, come abbiamo spesso detto, ci sono moltissimi musicisti italiani di grande qualità, noti un po' in tutta Europa, anche in tutto il mondo, che merita la pena, che vale la pena sicuramente di presentare. E l'idea è un po' proprio questa, stasera concentrarci esclusivamente su musicisti italiani, in particolare, come dicevo, dei pianisti. Sono tutti di sicuramente di grande qualità, di generazioni un po' diverse, ma in fondo con una voglia di suonare e così una sonorità molto legata al nostro paese, anche se poi diffusa in questo grande genere musicale che è il jazz. Il primo che noi il primo musicista che presenteremo è Enrico Pierannunzi. Enrico Pierannunzi è un pianista classico, nel senso che la sua formazione è classica, ma in fondo questa caratteristica poi la troveremo in tutti gli altri musicisti. Nato nel 1949, quindi ha 60 anni, oltre a aver eseguito tantissimi e aver inciso tantissimi dischi, è anche un compositore piuttosto famoso. Quindi che ha composto, tra parentesi, numerosissimi pezzi, oltre 200 pezzi, ha suonato con dei grandi musicisti sin dalla metà degli anni 70, è docente al conservatorio, quindi è l'unico che ha mantenuto questo legame stretto col conservatorio. Insomma, è un personaggio sicuramente molto, molto eclettico. Il pezzo che vi facciamo sentire è un pezzo del 1996, quindi non recentissimo, ma che è, direi, piuttosto significativo del suo, sì, del suo modo di suonare il jazz. Il pezzo si intitola Sea World ed è tratto da un disco del 1996, appunto, che ha lo stesso titolo, Sea World, Enrico Pierannunzi in trio con Hey Come the Gain e André Ceccarelli. Enrico Pierannunzi Trio con Hank Candgain e André Ciccarelli, un pezzo del 1996, Seaward. Paolo, che te ne pare di questo pianismo? Sì, buonasera a tutti, penso che siamo partiti bene, il trio avrebbe potuto farlo anche in famiglia perché il padre Alvaro era chitarrista, il fratello violinista, possiamo immaginare delle serate abbastanza movimentate. Sì, hai ragione, in effetti Enrico Pierannunzi viene da una famiglia molto musicale, non c'è dubbio, quindi, ma si sente anche... E si sente anche un po', secondo me, l'influenza di impostazione classica che rende così, dà un tocco molto interessante. In altri pezzi, ci sono dei pezzi in cui, forse lo ascolteremo in futuro, in cui veramente utilizza anche un organico di musica classica e questo incontro è molto interessante, come tutti gli incontri fra musica di vario tipo. Adesso facciamo un passaggio, passiamo a un altro pianista. Sì, Danilo Rea di Vicenza, nato nel 1957, un po' più giovane, che ce ne dici? Sì, effettivamente è una generazione abbastanza giovane, diciamo. Noi giovanissimi ne avremo uno che sicuramente è molto interessante, ma Danilo Rea appartiene anche lui ad un gruppo di pianisti che ha una preparazione classica, che ha studiato a Roma, in questo caso a Santa Cecilia, il famoso conservatorio di Santa Cecilia, e poi da giovane debutta nel 1975 con un trio tra parentesi con altri due nomi molto importanti, perché erano Roberto Gatto alla batteria e Enzo Pietropaoli al contrabbasso, sono anche altri due grandi nomi del jazz italiano, quindi cresciuti un po' insieme. Ha fatto moltissime esperienze sia a livello nazionale sia a livello internazionale, è stato per esempio nel gruppo del Nuovo Perigeo di Giovanni Tommaso, ma poi è interessante Danilo Rea perché ha avuto anche ha tuttora molte esperienze con dei grandi cantanti poi del pop italiano, solo per ricordarne qualcuno, Paolo, penso. Sì, ha suonato con Mina, Claudio Baglioni, Pino Daniele, Fiorella Mannoia, un po' dei grossi nomi. Sì, sì, infatti, e dando appunto, rompendo questa apparente barriera, in realtà certe volte inesistente, fra diversi generi musicali e prestando le sue capacità di grande musicista e anche di improvvisatore in un contesto abbastanza differente. Naturalmente ha anche, soprattutto suona con gruppi jazz, suona con suoi gruppi, suona da solo, c'è un gran bel disco registrato in una tournée europea con lui al piano solo. Nel pezzo che abbiamo scelto oggi suona con un trio, in trio, ed è un trio importante, si chiamano i Doctor Three. I Doctor Three sono composti da lui, da Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra, e hanno inciso dei dischi molto interessanti in cui spesso rifanno anche dei pezzi pop in maniera jazzistica, quindi così cercando di avvicinare dei generi senza assolutamente svilirli. Il pezzo che abbiamo scelto oggi è un pezzo che si intitola Bye Bye Blackbird, tratto da un disco che ha avuto un buon successo del 99 dal titolo The Songs Remain the Same, Danilo Rea con il suo gruppo dei Doctor Three. Danilo Rea con i Dr. Three, Bye Bye Blackbird, un bel pezzo in cui vengono messe in luce anche le sue doti di improvvisatore, e poi la chiarezza del suono e la piacevolezza, così la gioia di suonare che si percepisce da questo trio, appunto, che ormai incide insieme da molto tempo. E la stessa gioia di suonare penso che noi la troveremo nel prossimo pianista, che invece è un giovane pianista, che ha inciso un solo disco, ma che direi è ben più di una promessa ormai. Si chiama Vincenzo Danise, è napoletano, giovane, come vi fa pensare il fatto che è stato anche lui studiato al conservatorio a partire dal 96, conservatorio di Napoli naturalmente, e io direi che la sua musica è molto interessante perché così riesce a mettere in sonorità jazz alcune sensazioni che sono strettamente legate al Mediterraneo. Nel 2009 ha vinto un importante concorso, il Jazz Voltex Competition, e questo gli ha dato appunto la possibilità di incidere questo disco che sentiremo. È un disco interessante, Paolo, tu che ne dici? Sì, un disco che ci è piaciuto molto, ma non solo a noi, perché nella presentazione di Enrico Rava presenta il disco e Danise con queste parole. Dice che l'ha conosciuto in un seminario di Siena Jazz e dice: trattandosi di uno dei migliori di quell'anno, l'avevano assegnato ad uno dei miei gruppi di musica d'assieme. In quei pochi giorni che abbiamo lavorato alla mia musica ho avuto modo di apprezzarne la fantasia, la passione, il calore e un controllo dello strumento di tutto rispetto. Mi era poi capitato di ascoltarlo come sideman di vari gruppi in giro per l'Italia e le mie impressioni iniziali non avevano potuto che rafforzarsi. Non conoscevo però le sue doti di compositore, che in questo suo primo disco mi hanno colpito moltissimo. Brani sorprendentemente originali per un esordiente con dei momenti di alta poesia. Giri armonici che cantano come nel brano che dà il titolo al disco Immaginando un trio. Sì, ed è proprio questo il brano che noi ascolteremo e vi proponiamo. Dopo questa presentazione di Enrico Rava, penso che non ci resta che ascoltarlo insieme. Vincenzo Danise. Thank you. Vincenzo Denisi al piano, Diego Imparato al basso, Stefano Costanzo alla batteria, immaginando un trio. Sì, il pezzo era proprio quello che dà il titolo al disco. È interessante dire che questo disco si intitola Immaginando un trio, volume 1, e noi chiaramente speriamo che ci sia presto un volume 2, perché direi che c'è da ben sperare con questo album d'esordio. E soprattutto speriamo anche magari di avere altre occasioni per ascoltare questo giovane ma già interessantissimo musicista, Vincenzo Danisi. E adesso passiamo ad un altro pianista e un altro pianismo jazz, diciamo, perché Ludovico Einaudi è sicuramente anche lui uno dei più interessanti pianisti italiani contemporanei, e come ascolteremo ha delle sonorità abbastanza diverse da quelle che abbiamo ascoltato finora, molto più intimiste, anche queste legate molto in alcuni passaggi alla musica classica. Ludovico Einaudi è nato a Torino nel 1955 e anche lui ha studiato al conservatorio, Paolo. Sì, ha studiato come musicista classico, ma al tempo stesso aveva anche un'esperienza, ha iniziato invece a suonare in un gruppo che faceva jazz rock. Interessante. E poi è finito anche per collaborare a un disco di Celentano, un'esperienza molto. Sì, sì, molto, molto varia, come musicisti a tutto tondo, potremmo dire. Poi questo cognome Einaudi chiaramente fa venire in mente altri personaggi, in qualche modo legato alla famiglia Einaudi, sì. O alle famiglie Einaudi. È effettivamente la cosa a cui tutti pensano ed è vera, è nipote del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, figlio dell'editore della famosa casa editrice, adesso non più di proprietà della famiglia, e quindi anche lui ha comunque qualche esperienza familiare, non musicale in questo caso, ma del mondo culturale. Sì, senz'altro questo può anche in qualche modo aiutare a capire un po' la personalità, per quanto la personalità può permeare la musica di chi la suona e di chi la compone. Tra pensi, Ludovico Einaudi ogni tanto suona qui a Bruxelles, ci sono stati almeno due suoi concerti, speriamo che facendovi ascoltare questo pezzo, magari la prossima volta che passa a queste parti, così ci saranno ancora più persone a vederlo. Devo dire, è piuttosto noto, quindi non ha certo bisogno di pubblicità, ma senz'altro, come è sempre nelle nostre intenzioni, diffondere la buona musica è sempre così un buon motivo per proporre appunto dei pezzi. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Alma 101.9 a Bruxelles, il programma si intitola Jazz e dintorni, chi vi parla è Stefano, in buona compagnia. E ci sono anch'io, Paolo. E adesso appunto passiamo ad ascoltare Ludovico Einaudi, il pezzo che abbiamo scelto è da un disco del 2006 che si intitola Divenire, e anche in questo caso il pezzo è quello che dà il titolo al disco, Ludovico Einaudi. era Ludovico Einaudi, Divenire, dal disco Divenire del 2006. Beh, musica, come avevamo anticipato, particolare, sì, chiaramente rientra nell'ambito jazz dintorni, senz'altro, però con delle sue peculiarità, queste atmosfere anche qui che vengono create, queste un po' atmosfere rarefatte, direi, no? E poi con questi giri melodici che vengono ripetuti, un po' una musica per sognare, non so cosa ti fa pensare. A me fa pensare a un film. È vero, è vero. Tra parentesi, Einaudi ha scritto anche alcune colonne sonore, si presta sicuramente molto questo suo modo di suonare. Poi in questo caso, appunto, questa base di archi certamente aiuta in creare questo tipo di sensazioni, appunto un po' rarefatte, come dicevo prima, un po' particolari. Forse si adatta bene a queste giornate un po' nebbiose che abbiamo qui. Tra parentesi, Ludovico Einaudi è di Torino, appunto, come diciamo prima, quindi forse conosce anche questo tipo di atmosfera. Bene, adesso facciamo un po' un altro salto di pianismo jazz, pur rimanendo sempre nell'ambito italiano. Come abbiamo detto, la puntata di oggi si intitola Pianisti Doc, intendendo come doc pianisti italiani, e in una puntata di pianisti italiani non poteva mancare Stefano Bollani. Paolo, tu, che anche tu sicuramente avrai avuto occasione di vederlo o sentirlo, visto che fa tante di quelle cose in radio, televisione, dappertutto. Sì, sia come jazzista sia in altre faccette della sua multiforme attività, è un tipo interessante, ma poi il tuo preferito, mi pare. Sì, è uno dei miei preferiti, sì, confesso questo, e quindi chi segue Jazz e Dintorni lo ha già ascoltato molte volte e io non perdo occasione per presentarlo. Anche oggi avrete la possibilità di ascoltare un'altra così lato, un'altra faccia, come dicevi prima tu, della sua multiforme musicalità. In questo caso suona con Enrico Rava, che poi è il suo mentore, chi è la persona che più lo ha evidenziato, gli ha dato possibilità di farsi conoscere, e con cui continua a suonare molto spesso in diverse formazioni. Questo disco da cui abbiamo tratto il pezzo è un disco della ECM, quindi già anche questo vi fa pensare un po' alla tipologia di sofisticazione no, dei suoni, e il disco si intitola The Third Man o Third Man. Il pezzo che abbiamo scelto oggi è un pezzo che si intitola Birth of a Butterfly. Stefano Bollani con Enrico Rava. Thank you. Stefano Bollani con Enrico Rava la tromba, va ripetuto, Nascita di una farfalla, Bird of a Butterfly, dal disco Third Man del 2007, un gran pezzo. Beh, direi anche qui bellissime sonorità. E questo pezzo mi ricorda, che è un po' la caratteristica anche di Enrico Rava e di altri musicisti, come si suona con le note, ma si suona anche con i silenzi, si suona anche con le pause. No, e si sente negli interventi e nell'alternarsi fra tromba e pianoforte. No, sicuramente è un gran bel disco questo Third Man, che non possiamo che consigliare, e capite bene che non è un caso che sia inciso con la ECM. Bene, adesso passiamo ad un ancora diverso modo di interpretare e di essere un pianista, diciamo, jazz, anche se il prossimo pianista forse ormai ha un po' difficoltà a sentirsi definire pianista jazz, forse si sente un po' diverso. Parliamo di Giovanni Allevi. Giovanni Allevi è un personaggio anche lui particolarissimo, per come si presenta, per l'entusiasmo che mette, per la sua alternata molta timidezza, e anche per i suoi progetti, se vogliamo, musicali, che sono molto particolari, spesso con orchestre. Lui è un compositore, un esecutore ed è anche un direttore d'orchestra, nel senso, chiaramente ha una base classica, no? Anche lui ha studiato a un conservatorio. Quale conservatorio, Paolo, in questo caso? Quello di Perugia. Era nato Ascoli Piceno, interessante vedere, abbiamo alcuni da Torino, da Roma, da Napoli, ora da Ascoli Piceno, bello che vengano ognuno da territori differenti. Sì, sì, beh, anche questo prova che in fondo la propria strada musicale si può trovare un po' a prescindere da dove si nasce e da dove si studia, almeno in Italia, fortunatamente. Questo va detto, che poi non è un personaggio eclettico anche nella sua preparazione, perché non solo appunto ha studiato pianoforte al Conservatorio di Perugia, e questo è stato nel 90, ma poi 10 anni dopo ha anche preso, si è diplomato a un altro conservatorio, in questo caso quello di Milano, in composizione. Quindi anche questo dà un po' un'idea della sua particolarità. E poi nel frattempo si è anche laureato in filosofia, con una tesi un po' particolare, se non sbaglio, perché è una tesi dal titolo Il vuoto nella fisica contemporanea, quindi potete un po' immaginare il tipo, per chi non ha mai avuto la possibilità di ascoltarlo. Ma c'è un'altra esperienza marcante della sua vita: ha fatto il servizio militare nella banda nazionale esercito italiano. È vero, sì sì. Beh, va detto che poi lui narra un po' questo suo rapporto con la musica in un recente libro pubblicato da Rizzoli, in cui si intitola La musica in testa, ed è un po' un concetto che lui esprime anche durante i suoi concerti, per chi li ha sentiti, in cui lui vive di musica e si nutre di questo aspetto. Il pezzo che abbiamo ascoltato è un pezzo abbastanza breve, da un disco, non il suo ultimo disco. Il suo ultimo disco è un disco, diciamo, di carattere sinfonico. Invece questo disco del 2008 si intitola Evolution, e il pezzo che abbiamo scelto si intitola Prendimi. Mi sembra un pezzo comunque significativo del suo modo di comporre e di interpretare la musica. Giovanni Allevi. Thank you. Giovanni Allevi, Prendimi, dal disco Evolution del 2008. Sì, avete ascoltato anche qui appunto cosa intendevo quando dicevo che aveva delle caratteristiche particolari come sonorità, ma anche come ricorso ad un po' una tela di fondo di musica classica. Qui appunto c'era tutta un'orchestra classica dietro e i suoi ultimi concerti sono stati uno particolarmente importante all'Arena di Verona con questa All Stars Orchestra, non so quanti orchestrali ma certamente diverse decine, quindi una grande orchestra sinfonica e lui come direttore dell'orchestra, oltre che in alcuni pezzi come pianista naturalmente, di pezzi composti da lui. Quindi certe volte lui parla di musica classica contemporanea, chiaramente qui c'è chi può storcere la bocca, è un personaggio sul piano musicale abbastanza controverso, nel senso che fa parlare di sé, ma forse insomma anche questo è importante nell'ambiente musicale. Sicuramente è molto interessante e anche piacevole di un ascolto gradevole. Ci manteniamo insomma in questo caso nei dintorni del jazz, tanto sempre per rifarci al titolo della nostra trasmissione jazz e dintorni. La puntata di oggi dedicata ai pianisti, abbiamo pianisti italiani, pianisti doc, abbiamo finora fatto ascoltare sei pianisti e forse sarebbe il momento di anche far ascoltare una pianista, perché ci sono anche queste realtà fortunatamente anche in Italia e di eccellente qualità. La scelta in questo caso non poteva che ricadere su Rita Marcotulli, anche lei romana, mai nata nel 59, e anche lei ha studiato al Conservatorio di Santa Cecilia. Ha avuto moltissime esperienze con musicisti europei e internazionali, solo per citarne qualcuno, i musicisti nordici Jon Christensen e Palle Danielson, altri americani come Peter Erskine, Richard Gagliano, Pat Metheny, insomma veramente con grandi nomi e sempre con grandi apprezzamenti. Ha anche suonato e composto, perché lei compone anche musiche per film, quindi personaggio molto vario, anche lei molto dedicato però al jazz, come sentiremo in questo pezzo. Il pezzo è tratto da un disco che si intitola Omaggio ai Pink Floyd, in cui vengono reinterpretati tutti i pezzi dei Pink Floyd. In realtà il pezzo scelto non ha niente a che vedere con i Pink Floyd in questo caso, perché così il motivo della scelta era un po' dimostrare, darvi un'idea delle sue sonorità e del suo modo di comporre. Quindi è un pezzo suo, si intitola Melodico e direi che così giustifica, come sentirete il titolo, questo brano, questo modo di suonare. Melodico, Rita Marcotulli. Rita Marcotulli, melodico dal disco Omaggio ai Pink Floyd del 2008. E anche qui, appunto, come avevo anticipato, direi che il titolo rende bene l'idea del pezzo. Bene. Direi, siccome c'è qualche minuto in più e noi siamo per far conoscere i più giovani, perché non sentiamo un pezzo ancora di Vincenzo Danise? Questa mi sembra un'ottima idea che sicuramente raccolgo e forse useremo questo pezzo per salutare i nostri ascoltatori. Vi ricordiamo, siamo Stefano e Paolo. Il programma è Jazz e Dintorni, oggi è dedicato ai pianisti italiani e raccolgo questa eccellente idea di Paolo. Vi lasciamo con un altro pezzo tratto dal disco di Vincenzo Danise, Immaginando un trio. Il pezzo che facciamo ascoltare, anch'esso è molto significativo così delle sue origini, della sua sonorità, si intitola Fuoco dal Mediterraneo, Vincenzo Danise. Ascoltato Jazz e dintorni, viaggi nella musica percorsi e proposti da Stefano. Exactly what is it? Right now.